Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà infâme bail, ça fait déjà infâme bail. Questa mattina riprendo il punto esattamente lasciato, sospeso una settimana fa. Ricordate, l'Italia era al rientro di un lungo e fantomatico ponte e improvvisamente io posi la domanda: ma siamo in guerra? Cascarono un po' tutti dalle nuvole e ragionammo sul fatto che in realtà forse un pochino, lateralmente, per inciso, pacificamente, un pochino in guerra lo eravamo. È passata una settimana, qual è la vostra percezione questa mattina? Per ora quello che è certo è che i ribelli hanno preso sia Ras Lanuf che Brega, sono due importanti terminal petroliferi di produzione ed esportazione del petrolio. I ribelli hanno già annunciato di poter fare un accordo per la distribuzione del petrolio attraverso il Qatar. Accordo raggiunto a Bruxelles tra i 28 ambasciatori del Consiglio Atlantico della NATO. All'alleanza sarà affidato il comando di tutte le operazioni militari previste dalla risoluzione 1973 delle Nazioni Unite sulla Libia. La riconquista dei poli petroliferi ha fatto sì che i ribelli annunciassero subito: siamo pronti a produrre fino a 300.000 barili. E intanto, mentre le forze governative si concentrano... 800-24-0024, qual è la vostra percezione? Qual è la vostra attenzione all'informazione? Qual è la cosa che più vi preoccupa o più vi inquieta? Forse il discorso degli immigrati, le immagini che vengono da Lampedusa, che è il primo avamposto di conquista da parte di queste popolazioni immense di personaggi, di non si sa bene quale esatta provenienza, hanno a che fare con la guerra in Libia o semplicemente hanno approfittato di un momento di disattenzione e vengono magari dalla Tunisia, da altre regioni. Comunque il problema grava su di noi, è importante su di noi. Ieri vedevo su Sky TG24 il cronista in diretta da un campo appunto di raccolta profughi che faceva tranquillamente il suo stand up mentre uno dopo l'altro i clandestini scavalcavano il reticolato di filo spinato e correvano verso la campagna. Lui raccontava: vanno per agrumeti, poi rientrano la sera, entrano e escono. Poi già la sera vedevo i primi raduni di agricoltori della zona che protestavano, ragionavano: tornatevene a casa vostra. Questo è il punto importante. O il punto importante è se ancora realmente stiamo facendo una guerra. Da questa mattina il comando è alla NATO, siamo tutti più contenti, ma prima chi comandava? Improvvisamente sappiamo che non c'è più un aereo in grado di volare in Libia, quindi non ha più senso presidiare la no-fly zone. Se non ci sono più aerei, chi vola? Con cosa volano? 800-24-0024. Poi c'è anche una profonda e importantissima questione di mutamento lessicale del nome della missione. L'operazione NATO si chiamerà, nome significativo, Unified Protector, protezione unificata. Da Napoli il comandante sarà un canadese, il generale Bouchard lo conferma il suo governo. Mossa a sorpresa del regime di Gheddafi. Alcuni giornalisti occidentali sono stati spostati da Tripoli a Sirte senza fornire alcuna garanzia di sicurezza. I reporter sono stati fatti salire su tre pulmini bianchi senza alcuna insegna che indicasse che a bordo si trovavano rappresentanti della stampa e costretti quindi ad avvertire le rispettive ambasciate per evitare di essere colpiti dai jet della coalizione. Intanto un convoglio composto da mezzi civili e protezione militari... unificata, è caduto il roboante appellativo omerico di Odissea all'alba, protezione unificata, sembra lo spot di un preservativo, è qualcosa che comunque dovrebbe ridare tranquillità, una sorta di profilassi nei confronti di pericoli e perniciosi che vengono dall'esterno. Siamo tutti più tranquilli, tutti più sicuri, possiamo fare pace sicura con protezione unificata. 800 24 0024. Gianandrea Gaiani, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te. Io ho richiamato Gianandrea Gagliani, che è la persona che ci ha accompagnato una settimana fa, proprio perché questa mattina io vorrei rifare un punto rispetto all'informazione che è ampia, è dettagliata, a volte anche lievemente contraddittoria. Comunque ancora si ha l'impressione che in realtà ci sia un luogo in cui si combatta, in cui c'è guerra. Comunque l'informazione ci arriva, a volte contraddittoria, a volte non tale da suscitare il nostro interesse. Il nostro interesse è suscitato soltanto quando abbiamo qualcosa che ci arde vicino alle nostre parti sensibili, se no è qualcosa che accade agli altri. Lo stesso discorso non vale per quelli di voi che mi ascoltano e stanno a una certa latitudine. A Lampedusa cosa si pensa, cosa si dice? C'è qualcuno che ci ascolta e può parlarci? Ricordo che Gianandrea Gagliani è giornalista del Foglio, per il quale cura la rubrica militare. Si occupa di analisi storico-strategiche e studio dei conflitti internazionali, dirige il mensile web Analisi Difesa e collabora con Il Sole 24 Ore. Gianandrea, si può fare un punto questa mattina? Tu innanzitutto lo slittamento lessicale del cambio della missione come lo vedi dal tuo punto di vista, una tua personale opinione? Ma guarda, adesso sì, dopo Iraqi Freedom, dopo Enduring Freedom, degli anni bellici in cui si chiamava, almeno gli americani chiamavano guerra la guerra senza esitazioni, perché erano stati colpiti nel loro cuore, quindi da allora ci sono denominazioni alle operazioni militari un po' più morbide, un po' meno, che richiamano un po' meno il bellicismo, la guerra. E poi insomma questa risoluzione dell'ONU che autorizza l'intervento in Libia è una risoluzione che di fatto consente al mondo di fare la guerra a Gheddafi con la scusa di proteggere le popolazioni, e quindi il nome deve essere in linea con una missione che nasce sotto l'egida di una risoluzione dell'ONU. E in realtà è una missione di guerra, perché anzi dentro questa missione ce ne sono tre. Una che è quella che è a guida italiana, sempre sotto comando NATO, che permette di pattugliare il mare per fermare i mercantili che dovessero portare armi a Tripoli. La missione forse anche inutile, nel senso che se Gheddafi ha bisogno di armi gli conviene farle passare dalle frontiere meridionali. Certo, perché dovrebbe passare per il mare, che la via più lunga e più controllata, fra l'altro. E poi le stesse vie dalle quali gli arrivano i suoi mercenari che recluta nel Sahel. C'è l'altra missione che è la no-fly zone, il controllo dello spazio aereo libico, ma lo dicevi anche tu giustamente, ormai se in assenza di un'aviazione libica è un'operazione che anche in questo caso può servire a impedire a qualche aereo da trasporto di portare aiuti militari al regime, ma non ha più un grande senso. Poi c'è, quindi è vero che questo corrisponde in realtà che la Libia non abbia più aerei? Ma sì, forse ne avrà altri. Guarda, gli ultimi abbattuti dimostrano le condizioni dell'aviazione libica. I francesi hanno abbattuto alcuni aeroplani l'altro giorno, erano addestratori vecchissimi, jugoslavi, i Galeb. Se la Libia ha solo questo in grado di volare, non ha più nessuna capacità bellica dal cielo, quindi è ovvio che, insomma, d'altra parte col bombardamento di precisione che hanno subito era impossibile pensare che andasse diversamente. Poi c'è la terza fase, quella invece bellica per tutti gli effetti, che vede alcuni paesi, quelli che lo vogliono fare, l'Italia non è tra questi, la Spagna non è tra questi, che impiegano i loro aerei per colpire le truppe terrestri di Gheddafi e costringerle a ritirarsi sotto l'avanzata dei ribelli, ed è quello che sta accadendo. Ecco, questo giorni. Non è giustificato, questo è un atto di guerra vera e propria, non è che è un atto preventivo o per dare copertura e sicurezza a popolazioni civili. Sì, è un'ingerenza in una guerra interna, che c'è, che ci sia una guerra interna mi sembra dato per scontato, che ci siano dei fronti anche etnici contrapposti mi pare sfrontato. La parola guerra civile dà sempre a tutti fastidio, negli ultimi 50 anni non la vogliamo mai pronunciare, chissà perché, però lì in realtà c'è una vera e propria guerra civile interna. Guarda, il mio parere è questa è una guerra civile e guerra tribale. I leader della rivolta della Cirenaica sono leader, ex ministri dell'interno, della giustizia, del governo di Gheddafi, ma non ex da 10 anni, ex da un mese e mezzo. Quindi diciamo che stiamo combattendo a vantaggio di insorti che sono guidati da uomini che hanno fatto parte di un regime dispotico che non ha cominciato oggi a eliminare l'opposizione interna, e il ministro degli interni e della giustizia credo che debbano saperne qualche cosa. Ma al di là di queste valutazioni, io sono il primo a credere che le guerre si fanno per gli interessi nazionali e non per motivi. Sì, nessuno di noi fa la verginella o la vestale. Assolutamente, evitiamolo. Perché però dire esattamente come stanno le cose, secondo me è doveroso, senza poi dare giudizi in merito. È una zozza guerra interna che si fanno all'interno di uno stesso ordinamento che fino a qualche mese fa stava bene a tutti noi. Se qualcuno interviene duramente è prendere posizione nei confronti di una parte, quindi partecipare alla guerra. O sbaglio? La risoluzione lo consente perché, essendo volutamente vaga, autorizza l'uso di qualunque sistema per proteggere i civili dalle forze di Gheddafi, dalle forze governative. Quindi identifica un nemico, che sono le forze di Gheddafi, che minaccia i civili. Allora, nell'interpretazione estensiva di questa risoluzione, succede che il carro armato libico che sta sparando contro una casa in mano ai ribelli è considerato una minaccia per la popolazione, viene neutralizzato, viene distrutto da un missile di precisione, ma viene distrutta anche la colonna di mezzi che sta avvicinando, che si muove da una città all'altra, perché potenzialmente potrebbe rappresentare una minaccia per i civili, dimenticandoci anche che nel momento in cui un civile si organizza in movimento armato, prende le armi, assalta le caserme e comincia a sparare, diventa un combattente, e quindi insomma la discriminazione tra civili e non civili in una guerra civile, in una guerra tribale, diventa difficile da fare, e teoricamente gli unici civili che ci sono sarebbero gli abitanti di una città non schierati con gli uni o con gli altri, che si trovino in mezzo agli scontri. La cosiddetta popolazione inerme, che ancora però non abbiamo nemmeno visto affacciarsi alle nostre coste. Scappano dalle città per non restare coinvolti nei combattimenti, per quello che ne sappiamo, perché anche le informazioni dal fronte noi dobbiamo considerare affidabili solo le informazioni, io me lo faccio così, che arrivano di prima mano dai nostri reporter, quelli che sono giù e che raccontano quello che hanno visto. Tutto il resto io la considero sicuramente informazioni potenzialmente vere, ma tutte da verificare, tenendo conto che la propaganda sul fronte di Gheddafi, come sul fronte dei ribelli, è un'arma che viene utilizzata fin dall'inizio di questa guerra in maniera massiccia. Ecco, tu che sei un osservatore attento di tutte le fonti possibili e immaginabili, ci sono state conferme dei cosiddetti genocidi, delle fosse comuni, dei 10.000 morti, e hai altre prove sull'azione preventiva di intelligence inglese e francese per preparare la rivolta? Ma allora, sul numero delle vittime, ti ricorderai, addirittura qualcuno parlò di 10.000 morti e 50.000 feriti. Io credo che le fonti più affidabili, le uniche forse che hanno un minimo di oggettività, sono le fonti ospedaliere. Le fonti ospedaliere di Bengasi, della Cirenaica, parlavano una settimana fa di circa 500 morti riscontrati dall'inizio del conflitto. Ovviamente queste cifre non tenevano conto dei morti nelle città ribelli della Tripolitania, quindi possiamo pensare che anche con gli scontri degli ultimi giorni i morti abbiano superato ampiamente il migliaio. Teniamo conto che le colonne di truppe libiche distrutte dagli aerei francesi, britannici, all'interno di queste colonne non c'erano solo un centinaio di carri armati, corazzati e 250 veicoli, c'erano anche circa 800 soldati uccisi dai raid aerei. La guerra è guerra, quindi non ci dobbiamo sorprendere di questo. Noi giochiamo ai soldatini, dentro un carro armato ci sono 4-5 persone, quando vediamo quella bellissima foto che è inquadrato dal mirino, esplode, non è che esplode un mucchio di ferraglia, esplodono le 5-6 persone, non so quante siano dentro un carro armato. Non lo dico perché voglia dire esista una guerra pulita, una guerra sporca, perché è così. Sentiamo qualche ascoltatore. Francesco, buongiorno. Buongiorno, saluti a tutti. Volevo semplicemente dire una cosa sul fatto dell'energia che sta alla base di questi conflitti e del petrolio. E questo mi sembra scontato. Lo dimostra il fatto che oggi la voce degli insorti dice: possiamo controllare il petrolio, possiamo già erogare e mandarvi barili di petrolio, quindi come per dire adesso siamo noi quelli che hanno il boccino in mano. Una distribuzione della ricchezza che non c'era fino adesso è pretesa con queste ribellioni. Però voglio dire un'altra cosa riguardo la fusione fredda, che da tanti anni è stata, sembrerebbe una bufala. Però ultimamente, dal 2008, addirittura in Giappone, il professor Arata ha dimostrato che è possibile. E ultimamente, nel 2000, adesso all'inizio di quest'anno, un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna, quindi non ciarlatani, ha dimostrato di produrre energia termica praticamente con un costo inferiore di 20 volte. Ma questo cosa ci azzecca adesso con la guerra in Libia? Scusi, Cosa c'entra? No, nel senso che se la comunità scientifica, la comunità mondiale si accorge di questa cosa, l'energia sarebbe molto più a buon mercato. Sì, però lei si risponde e non ci sarebbero questi conflitti. Si risponde solo. Veramente siamo arrivati al punto che ognuno si può fare il condominio si può fare il proprio generatore di energia. Ho capito, però io rispetto e sono molto appassionato, attento all'evoluzione scientifica nel campo energetico. Ma se fanno una guerra di questa proporzione e con questo impiego di forze, significa che ancora la fonte di energia più appetibile e più facilmente usabile, più alla portata di tutti, è ancora il petrolio della Libia o dei paesi dove andiamo a portare la democrazia. Se no, altrimenti staremmo tutti a fare le fusioni fredde e nessuno si occuperebbe di Gheddafi. Gheddafi sarebbe nella sua tenda, giocherebbe a fare il beduino, ma nessuno ne farebbe un caso nazionale. Sei d'accordo, Gianandrea? Ma sì, io credo di sì. Poi prima tu mi chiedevi infatti delle ingerenze nella crisi libica, Francia e Gran Bretagna. Quelle preventive, diciamo. Certo, hanno avuto un pesante Adesso ruolo. Siamo alla fase preservativa, ma una fase preventiva c'è stata. C'è stato, e come? Perché ci sono stati diversi elementi che lo hanno dimostrato. Intanto l'attivismo francese di voler a tutti i costi intervenire con gli attacchi al suolo a sostegno dei ribelli mentre i ribelli stavano per soccombere a Bengasi. Ma precedentemente fonti della stampa britannica, citando ufficiali militari, anche se in forma anonima, delle forze armate britanniche, già dopo 3 settimane di guerra civile informarono che forze speciali inglesi erano al fianco dei ribelli già da alcune settimane. Fonti israeliane, dopo una settimana della rivolta, a metà febbraio, in Libia, informavano che forze speciali inglesi, americane e francesi avevano affiancato i ribelli. È chiaro che quando queste cose accadono, non è che vengano pianificate in 48 ore, accadono perché sono state pianificate prima. E quindi che ci sia stata un'iniziativa anglo-americana, forse franco-britannica, di soffiare sul malcontento delle tribù libiche rappresentate da alcuni esponenti di spicco dello stesso governo di Gheddafi, per far saltare il regime è molto più che un'ipotesi, e lo dimostra anche il fatto che britannici e francesi sono in prima linea nel bombardare le truppe di Gheddafi. Poi si può immaginare che i ribelli abbiano dato ampie garanzie che in poche settimane avrebbero fatto cadere il regime, così non è stato e oggi i combattimenti infuriano, anche se è difficile capire chi stia vincendo e chi stia realmente perdendo. Ecco, secondo la tua esperienza e i tuoi studi, l'altra volta lasciamo sospesa questa domanda, il famoso e fatidico attacco di terra, cioè il rapporto di combattimento corpo a corpo, che è altra cosa rispetto a tirare dei missili a un aereo, è prevedibile, vicino, e saremo coinvolti anche noi cosiddette forze alleate? Guarda, io non ho gli elementi per darvi una risposta, per quale ragione? Perché in questo momento le truppe di Gheddafi stanno ritirandosi, addirittura forse hanno lasciato Sirte. Questo può significare due cose: che non si ritirano per l'avanzata dei ribelli, non sono i ribelli a farli ritirare, sono i pesanti bombardamenti di precisione che subiscono ormai da giorni dagli aerei statunitensi, francesi e britannici. Allora, se questi bombardamenti hanno demoralizzato, hanno azzerato il morale di questi soldati di Gheddafi, può darsi che il regime crolli da solo perché i suoi combattenti si rifiutano di combattere, buttano le armi nei prossimi giorni. Può darsi invece che sia una strategia. La guerra nel deserto nordafricano, già nella seconda guerra mondiale, era fatta di avanzate ripiegate e ritirate repentine dovute proprio alla necessità di accorciare le linee di rifornimento, diciamo. Quindi può darsi che Gheddafi si stia ritirando nella ridotta, ripire le sue truppe intorno a Tripoli, nelle città più fedeli a lui, per combattere l'ultima battaglia. Come invece può darsi che sia una ritirata determinata dal fatto che Gheddafi ha deciso di non dare più bersagli agli aerei alleati, quindi di sperdere le sue forze nei centri abitati per ridurne la vulnerabilità. Quando avremo capito cosa sta succedendo, io in questo momento non ho gli elementi sul campo che invece ho avuto in passato andando in Afghanistan, in Iraq, in altri teatri operativi, per darti una risposta. Quindi esiste una possibilità per lui? Le alternative sono tre: o la morte eroica che sta millantando e dicendo di voler perseguire, o una ritirata, nel senso una fuga, un esilio, via dicendo, o addirittura negoziare una sua ufficiale tenuta comunque del potere a delle condizioni. Questa terza ipotesi secondo te è plausibile? Che rimanga comunque Gheddafi, ma si mettano un po' d'accordo sul da farsi? Ma allora, questa ipotesi, perché qualcuno lo dice. Sì, certo, ci pare che ci siano esponenti del suo regime che, così si dice, stanno negoziando, anche se questa può essere anche una notizia, visto che tu ti occupi spesso di comunicazione anche riguardo a questi termini, può essere anche una notizia che viene fatta filtrare in Occidente per indurre Gheddafi a diffidare del suo entourage, quella che uomini del suo regime stanno negoziando. Può essere vera, può essere vero anche il contrario, perché in guerra le informazioni che vengono date sono solo quelle utili alla vittoria su entrambi i fronti, non quelle utili all'opinione pubblica o a noi analisti per farci è qualcosa vedere. Che accade molto spesso, anzi accade nella maggior parte dei casi, anche il circolo dei fedelissimi eroici uomini attorno al Führer alla fine provarono a negoziare, provarono a farlo fuori. Quindi non esiste dittatore, non esiste uomo di potere così carismatico da impedire che i suoi fedelissimi prima o poi cerchino di salvarsi le chiappe. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues. 800-24-0024, stiamo facendo un punto a una settimana di distanza, l'ultima volta di cui ci siamo occupati, sulla guerra in Libia. A questo punto non abbiamo più nessun pudore, nessuna vergogna, nessuna reticenza a chiamarla guerra a tutti gli effetti. Più andiamo avanti nell'analisi approfondita di quello che sta accadendo, di cui abbiamo sicuramente un'ottima informazione, più ci rendiamo conto che in realtà siamo in guerra. Siamo in guerra, ma quello che mi sembrava più scontato che le persone telefonassero per avere sensi di preoccupazione per ciò che sta accadendo, soprattutto al meridione del nostro paese, la grande massa di immigrati, di clandestini, l'invasione verso il nostro paese, le quote immigranti da cui che ci dovremmo dividere. Invece no, anzi, mi sembra che tutti siano, come se noi giocassimo a risico, interessati a dare il loro punto di vista sui grandi scenari internazionali. 800240024. Sentiamo Marcello. Marcello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente dire una cosetta. Questa guerra è una guerra purtroppo nata male, ma non sono particolarmente preoccupato. Oddio, una guerra è nata bene. No, ci vuole molto male, stomaco a dirlo. È nata male anche per l'organizzazione, perché c'erano tutte le basi, anche politiche, storiche, si è stata attaccare. Sì, c'è stata una settimana di cialtronaggine diffusa rispetto alla gestione di questa cosa. Su questo sono assolutamente d'accordo. L'abbiamo detto. La cosa che mi preoccupa di più è il fatto che sembra una guerra nata un po' come la ciliegina sulla torta, nel senso che c'è un gravissimo problema che ci impegnerà per mezzo milione di anni, che sono le centrali nucleari esplose che continuano a bruciare e che non sappiamo far nulla per quello. Quindi questa guerra ha portato l'attenzione del mondo intero su un argomento per quanto importante, ma direi a dir poco gravissimo per la perdita in vite umane, ma effimero, nel senso che obiettivamente parlando siamo al solito tutti contro uno e per di più abbattiamo fortezze volanti. Sì, oddio, bisogna anche vederlo a seconda del punto di vista. Io sto sollecitando attenzione questa mattina perché mi sembra che ne siamo epidermicamente coinvolti proprio per contingenze geografiche, ma mi rendo conto dal punto di vista dell'altra parte dell'oceano è uno dei tanti conflitti in cui ci si mette l'alluce del piede sinistro e poi vediamo un po' cosa succede. Noi la sentiamo vicina perché, ripeto, al di là del conflitto che non ci preoccupa più tanto, che abbiamo capito che non sconfinerà, non arriveranno missili dalla Libia, non arriveranno aerei a bombardarci, non ci sarà la bomba atomica sporca di Gheddafi, non ci sono armi di distruzione di massa, insomma una piccola e controllata carneficina locale alla quale noi partecipiamo, non ne siamo colpiti. Invece no, invece il problema energetico ci tocca, il problema soprattutto del riflusso degli immigrati che vediamo arrivare. Finora il problema, diciamo, è soltanto di chi abita all'altezza di Lampedusa, ma probabilmente presto potrebbe diventare anche nostro. Claudio, buongiorno. Buongiorno, io vorrei soltanto avere un'informazione. Come mai durante tutta questa guerra non è stato parlato una volta dell'Iran? L'Iran cosa stanno facendo? Cosa stanno pensando di questa guerra? Come vedono questa guerra? Grazie. È questa la giro subito a Gianandrea Gaiani, visto che la domanda, come leggevo nella scheda, era per lui. Ricordo, un giornalista del Foglio, cura la rubrica militare, si occupa di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti internazionali, dirige il mensile web Analisi e Difesa, quindi è un esperto di quello, è a tutti gli strumenti per analizzare quello che sta accadendo, e poi collabora anche con il Sole 24 Ore. Gianandrea Gaiani, rispetto a domande, questo ascoltatore dice: cosa sta facendo l'Iran, che sembrava il più pernicioso pericolo per l'equilibrio in Oriente, Medio Oriente. Sì, ma l'Iran lo è probabilmente ancora il pernicioso problema. Il fatto è che l'Iran reprime violentemente le rivolte entro i suoi confini, ci sono state anche recentemente, incoraggia le rivolte nei paesi arabi che considera i suoi nemici. L'Iran ha salutato la rivolta in Libia come un tentativo del popolo di liberarsi dal tiranno Gheddafi, ma ha espresso il suo disappunto per un intervento internazionale che viene visto come neocoloniale. Quindi l'Iran persegue i suoi interessi. Un mondo arabo che non ama l'Iran, che arabo non è e che è sciita, l'Iran punta alla destabilizzazione dei paesi arabi che sono suoi avversari, come punto che lo avvantaggerebbe. Così saluta con entusiasmo le rivolte sciite in Bahrain, dove i sauditi sono dovuti intervenire con le armi per sostenere la monarchia locale. Su cui noi naturalmente non mettiamo becco, perché non... Beh, non ci sono risoluzioni dell'ONU che invitano i sauditi a ritirarsi dal Bahrain o bombardamenti aerei sul Bahrain, anche perché lì c'è una base navale, il quartier generale di una flotta americana, che è quella dell'Oceano Indiano, quindi insomma ci sono altri interessi, ma insomma non ci scandalizziamo per questo, credo, lo dicevamo anche prima, e non ci scandalizziamo. Credo però che sia vero quello che dicevi tu, che è strano il fatto che questa guerra, forse perché negli ultimi anni ci siamo usurati, no, con i reportage continui, prima dall'Iraq, poi dall'Afghanistan, poi dall'Iraq, poi ancora dall'Afghanistan, c'è un impatto emozionale, emotivo anche sull'opinione pubblica di questo conflitto più limitato rispetto ad altri, benché sia molto più vicino a noi questa guerra e abbia degli influssi dall'immigrazione alla chiusura dell'aeroporto di Trapani, che è anche uno scalo civile, che invece oggi è stato chiuso al traffico da diversi giorni per consentire operazioni militari, ha un impatto diretto su di noi. Ci sono 7 aeroporti italiani coinvolti in questa guerra, e l'obiettivo io credo che sia per tutti quello di chiuderla in fretta questa guerra. Per quello, se Gheddafi non dovesse crollare, per questo si potrebbe, già qualcuno sta valutando l'ipotesi di un intervento terrestre necessario a dare quella spallata che è evidente, che forse i ribelli da soli non sono in grado di dare, neanche col supporto aereo alleato, si vedrà. Però ecco, l'obiettivo per tutti è chiuderla in fretta, perché una guerra aperta vuol dire destabilizzazione nel centro del Mediterraneo prolungata, ed è un prezzo che credo nessuno, l'Italia per prima, ma anche gli altri paesi occidentali hanno interesse a pagare. Senti, un'altra cosa che vedo che mi chiedono molte, una domanda che mi faccio anch'io, l'improvviso arrivo di questi barconi di immigrati, che sappiamo che maggior parte poco hanno a che fare con non sono profughi di guerra a seguito di quello che accade in Libia, ma persone che hanno approfittato della situazione in un mare così presidiato, in una zona che dovrebbe avere molte più difese e prevenzioni, come fanno a passare e come mai il problema poi arriva subito a noi? Non c'è una maniera di fermare prima il problema, o di prendere degli accordi prima, o di fare qualcosa prima? Fermare prima il problema, noi abbiamo delle leggi che ci legano le mani in qualche modo. Se in mare aperto raccogliamo un barcone pieno di migranti, li dobbiamo portare a terra, riconoscerli, identificarli, quindi assisterli, e poi vedere se qualcuno ha diritto all'asilo politico o ad altri tipi di assistenza, se devono essere rimpatriati. Questo consente, come prima tu raccontavi, insomma, a un sacco di gente di venire qua in Italia, poi far perdere le sue tracce. E io credo che su questa emergenza dobbiamo fare una grande chiarezza. La prima è la differenza fra migranti e profughi di guerra. Esattamente. Il responsabile dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati già 20 giorni fa lo diceva: chi arriva a Lampedusa sono migranti, non hanno nulla a che fare con la guerra. Abbiamo fatto l'errore, come Italia, a mio parere, di accogliere i primi 300 sbarcati. Avremmo dovuto ricaricarli su un traghetto e riportarli da dove erano venuti, perché in questo modo avremmo scoraggiato non solo i migranti, ma soprattutto le mafie che si arricchiscono facendo arrivare, le mafie tunisine in questo caso, facendo arrivare in Italia queste persone. Si parla di 1.000-1.500 euro a passaggio. Ecco, questo dobbiamo dire, perché forse non è ben chiaro a tutti. le persone che arrivano con delle barche fanno parte di un terrificante e sporco commercio, sono persone che pagano per avere un passaggio illecito dalle nostre parti, quindi ogni barcone sono soldi che entrano nelle mafie locali. E il fatto che noi abbiamo rinunciato come Italia a esprimere una deterrenza, noi siamo pronti a ospitare profughi di guerra, no immigrati clandestini, e ci porta a essere oggi sotto pressione. Del resto, dalla Tunisia fino al Sudafrica ci sono milioni di persone che vivrebbero meglio in Italia che a casa loro, questo però non ci consente di ospitarli tutti, quindi bisognerà. E poi sui profughi di guerra invece, che cominciano ad arrivare adesso, alcune barcone da Misurata, dalle zone della Tripolitania, con a bordo per lo più lavoratori africani che fuggono dalla guerra che sta arrivando nelle città dove loro vivevano, beh, lì c'è una soluzione che noi abbiamo già adottato un mese fa, quando i lavoratori stranieri che erano in Libia scappavano in Tunisia. Con i nostri aerei, con le navi, abbiamo creato un ponte per riportarli a casa loro, chi in Egitto, chi in Bangladesh, gli eritrei che stanno arrivando potremmo riportarli a casa loro, chiaramente a nostre spese, con un ponte aereo italiano che comunque costerebbe meno e creerebbe meno difficoltà che gestire un'accoglienza massiccia. Tenere solo, assistere soltanto i veri profughi di guerra, quelli che i libici che dovessero scappare perché perseguitati, perché è come facemmo durante la guerra in Jugoslavia, ricorderai, ospitando certo. Migliaia di profughi che poi a fine guerra sono rientrati a casa loro. Grazie a Gianandrea Gagliani, molti ascoltatori in attesa a cui darò la voce tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Riprendiamo subito a parlare con gli ascoltatori. L'argomento è quello del conflitto in Libia, il vostro punto di vista, i vostri timori, le vostre domande, a cui risponde Gianandrea Gagliani, che è esperto appunto in studi strategici e conflitti internazionali. Salem, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore, a tutti i radioascoltatori. Io sono tunisino, praticamente so com'è la Libia. Io mai ho pensato che la guerra c'è sbagliata e giusta, sono tutte sbagliate, ma questa guerra qua contro Gheddafi è giusta. Perché quello che le vittime che le fanno bombardamenti dell'ONU è un millesimo di quelle che sta facendo Gheddafi e quelle che ha fatto di 42 anni, che sta massacrando non solo il suo popolo ma tutto il mondo. Ma nessuno esclude la guerra come possibilità comunque di riportare ordine e democrazia, diciamo così. Quello su cui riflettiamo è i tempi. Ci sembra un po' singolare che un personaggio che può andare per l'Europa acclamato, vezzeggiato, cullato, lambito, con le tende, con le guardie del corpo, con le donne, fa lezioni nelle università, dopo tre mesi diventa il nemico pubblico numero uno. Solo su questo noi stiamo osservando. Sì, ma dottore, ma ci vuole sempre un motivo per eliminarlo. Adesso che c'è l'opposizione... Che non riescono a farlo da solo perché lui è talmente armato, e allora l'Occidente è giusto che fanno questa cosa qua. Ma... almeno capisci anche gli altri suoi amici come Ahmadinejad e quella Assad di Siria, che quello che massacra il suo popolo e fa del male, prima o poi viene eliminato anche lui, così almeno capiscono. Sa, ci sentiremo tutti la coscienza per posto, ma poi parlo in linea di principio assoluto naturalmente. Se questo anelito di protezione lo avessimo anche per paesi che non hanno petrolio, sembra strano, ma le uniche democrazie che vediamo minacciate e gli unici diritti civili sono paesi di cui c'è sempre qualcosa da rosicchiare. Comunque grazie. Andrea, buongiorno. Sono io, sì. Da Torino. No, io non ho più seguito la trasmissione, ma prima in macchina sentivo nella votazione definire una rivolta tribale, quella libica. Ora, io ho trovato un amico francese di Libia che sento un giorno sì, un giorno no. Ma non è una parolaccia tribale, eh? Tribale no, significa che esiste un forte legame etnico fra popolazioni che appartengono, esatto, a uno stesso però gruppo. Però diciamo che dà un'idea, secondo me, un po' fuorviante di quello che succede in realtà in Libia, di quello che è successo, soprattutto in quanto c'è... Lei è figlio di una signora libica? Scusi? No, io ho un amico, io lavoro con una società francese, sì, tra l'altro... a Torino, ma un amico nostro che è di origine libica, che sta proprio in questi momenti a Bengasi e che fa parte della televisione via web che si chiama Libia Ahura, che è quella creata da Mohamed Abbas, che è stato definito da CNN l'eroe dell'informazione per quindi il lei diciamo, ha una fonte privilegiata, ci dica il suo punto di vista, cosa ha dedotto dal suo amico che fa informazione? No, praticamente ci sono migliaia e migliaia di giovani laureati che sono tornati tra l'altro in Libia, che Abbas era laureato a Oxford, voglio dire, lavorava in una serie di telecomunicazioni che ha creato questa web TV per trasmettere agli albori della rivolta in tutto il mondo cosa succedeva a Bengasi. Cioè, quindi questa idea della rivolta tribale, ci sono migliaia di giovani che hanno studiato, che sanno utilizzare internet, che guardano la Gazzetta, che sono stufi del regime, voglio dire, liberticida di Gheddafi, che sono ribellati. Quindi secondo lei c'è un'elite intellettuale, ideologica, che va oltre l'aspetto locale e la divisione tribale? Assolutamente, è un dato interessante. Abbiamo questa idea della Libia, come se ci sono stato diverse volte, della Libia come se fosse un paese, voglio dire, come dire, primitivo. Ma quindi sono ragazzi che sono addirittura più, come dire, più educati di molti ragazzi italiani del Sud Italia, voglio dire. Non ho alcun dubbio. Hanno un livello di informazione estremamente, estremamente, come dire, raffinato. Poi ecco, le elite intellettuali molte volte le rivoluzioni ne impugnano l'aspetto ideale a distanza. Questi ragazzi poi sono anche lì con il Kalashnikov in mano a combattere o semplicemente emettono giudizi, pareri o letture politiche? No, io direi che c'è anche poi un problema di dignità economica. La Libia ha 6 milioni di abitanti e potrebbe avere un reddito pro capite fra i più alti del mondo. Il problema delle risorse energetiche del petrolio che ha fatto, voglio dire, Gheddafi in questi anni, questa è una popolazione non ha visto nemmeno, voglio dire, l'1% di quello che può essere la potenzialità economica della Libia. Allora questi giovani si sono stufati di vivere in questa situazione e si sono ribellati, anche per ragioni economiche, questo è il problema. Quindi c'è anche la ricerca della giustizia sociale, fantamiliardari, ma un tenore di vita buono per tutti. Guardi, questi 300 ragazzi che fanno questa televisione, che si può vedere tra l'altro in live stream, si chiama Libia Haurra, sono la metà, hanno tutti studiato all'estero. Dove sono adesso fisicamente questi ragazzi? A Bengasi, sono in un appartamento e trasmettono questa televisione. Lei sa che Mohamed Abbas è stato ammazzato da un cecchino di Gheddafi all'inizio proprio della rivoluzione, perché trasmetteva col telefonino le immagini sulla CNN. E loro stessi stanno correndo un rischio concreto e reale per la loro vita. Certo, poi vorrei dire cinismo e dire il petrolio. Insomma, ricordiamoci che Sarkozy è l'unico che è intervenuto quando c'è stata la crisi delle infermiere bulgare, parliamo dell'inizio del suo mandato presidenziale. Sì. Gheddafi aveva condannato a morte queste infermiere bulgare, tutto il mondo parlava e faceva, lui ha mandato la prima moglie a fare una mediazione e le hanno liberate. Come riconoscenza l'ha invitato a Parigi e gli ha dovuto fare anche lui l'inchino e la fanfare, eccetera, eccetera. La tenda, tutte le cose. Esatto. Ma in realtà però, voglio dire, ricordiamoci che Bengasi ha 850.000 abitanti e quando il figlio di Gheddafi dice entriamo nelle vostre case e non risparmiamo nessuno, ieri sono arrivati, adesso vediamo i carri armati con la bandiera francese che sventola. La domanda è: l'ENI, le ambasciate italiane, i consolati italiani, l'informazione italiana dov'era in questo periodo, voglio dire, per dare il posto alla situazione? Altrove, distratta, dormiente, perché sennò, voglio dire, bastava girare per le strade per capire com'era la situazione. Quello che un po' stavo dicendo anche noi, ce ne siamo accorti soltanto adesso. Gianandrea Gagliani, sull'ultima telefonata, che mi sembra che ci porta dei dati interessanti. Sì, io non ho mai detto tribale con un tono dispregiativo, tribale perché la società libica è una società tribale. È il termine esatto nella nostra lingua per definire quel tipo di... Non volevo dire che era una popolazione arretrata o sottosviluppata col termine tribale, tutt'altro. Non a caso i suoi leader, l'ex ministro degli interni Yunis, l'ex ministro della giustizia Jalil, sono esponenti di spicco di tribù della Cirenaica. È vero, l'aspetto economico è vero, la Cirenaica da sempre ribelle, da sempre autonomista, non godeva, non ha mai goduto degli aiuti economici del governo di Tripoli, e anche i benefici del petrolio sono andati soprattutto alle tribù più vicine e più accomodanti verso il colonnello Gheddafi, e molto pochi benefici economici sono arrivati appunto invece in CIA. Ecco, che risulta di questo movimento, diciamo, ideologico, intellettuale di giovani libici, che possibilità poi ha un domani di sedersi al tavolo, diciamo, delle trattative? Ma non lo so, dovremmo vederlo sia lì che come in Egitto. Questi giovani hanno fatto gran parte delle rivolte in Piazza Tahrir in Egitto, poi negli sviluppi politici mi sembrano messi un po' in ombra dai gruppi organizzati. In Egitto parlo dei Fratelli Musulmani o di altri. E in Libia sicuramente hanno svolto un ruolo importante nella mobilitazione dei giovani, soprattutto per la rivolta. Non so quanto spazio potranno avere domani in una riorganizzazione politica del paese, tenuto conto appunto, e lo ripeto, senza toni dispregiativi, che quella è una società tribale nella quale gli equilibri di potere politico si esprimono in quote proporzionali delle tribù rispetto al loro peso anche demografico e al loro prestigio. Quindi è tutto un discorso di sviluppo democratico reale del paese che non possiamo, credo, valutare adesso. Circa Sarkozy, volevo far solo un appunto. Sì, è vero quello che ha detto l'ascoltatore, ma non ci dimentichiamo, Sarkozy fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, cercava a tutti i costi di vendere a Gheddafi e ai suoi aerei da guerra, i moderni Rafale, quelli che oggi impiega per distruggere le colonne corazzate del Raïs. Glieli voleva vendere 18 aerei per 3,2 miliardi di euro all'interno di un programma di vendite di mezzi militari modernissimi che prevedeva anche elicotteri da combattimento, quelli che potrebbero essere usati per reprimere le rivolte, e aerei e radar per la difesa aerea. Un pacchetto da 10 miliardi di dollari che il Raïs ha esaminato, che Gheddafi ha esaminato e poi ha rifiutato, preferendo acquistare roba, materiale russo, che non ha fatto in tempo. E oggi per questo penso che si stia mangiando i gomiti, perché se l'avesse comprati avrebbe magari una posizione diversa in questo conflitto. Grazie a Gianandrea Gagliani, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est reparti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.